Pablo Picasso, raccontato da Marco Carminati. Negli anni 20 e fino agli anni 30 Picasso ritorna all'ordine, cioè recupera una pittura tradizionale, figurativa, molto intensa, molto ricca di vita, ma sicuramente ancorata a dei modelli che sono modelli del passato, il mondo classico, greco e romano, la tradizione dell'Ottocento. A un certo punto non sarebbe Picasso se non decidesse di buttare a mare tutta questa tradizione. Una svolta improvvisa intorno al 1925, basta con la classicità, basta con questi punti di riferimento, si ricomincia da capo. È uno degli atteggiamenti classici di Picasso di aver continuamente rimesso in discussione quello che aveva fatto prima e, cambiando rotta, aggiungere cose nuove, aggiungere novità. Ecco perché noi oggi lo consideriamo uno dei più grandi artisti di tutti i tempi. C'è un dipinto molto interessante che si trova nel Museo Picasso di Parigi, che è La Supplice, che segna in modo evidente questa svolta. Si tratta di un dipinto realizzato nel 1937, anno chiave per Picasso, perché è l'anno in cui Picasso realizza uno dei suoi più grandi, famosi e intensi capolavori, che è Guernica. Guernica è un quadro denuncia che viene realizzato da Picasso per essere esposto all'Esposizione Universale di Parigi, e denuncia che cosa? Un terribile attacco a tradimento della città basca di Guernica da parte delle truppe tedesche che erano venute ad Manforte a Francisco Franco, allora in piena guerra civile spagnola, e questo massacro ispira a Picasso appunto Guernica, dove le figure sono straziate, urlano, alzano le braccia, si disperano per questa ingiustizia immane. E questo dipinto, cioè La Supplice, è proprio inserito in questo contesto. È lo stesso anno, si vede una donna che è evidentemente una vedova che alza le braccia al cielo disperate. In questo gesto il seno gli si disfa, gli si apre alla vista di chi guarda, e tra l'altro questa donna disperata sicuramente sottolinea anche un aspetto privato della vita di Picasso. Picasso nel 37 ha praticamente due fidanzate: Marie-Thérèse Walter, che è la fidanzata precedente, e la giovane fotografa Dora Maar, che tra l'altro lo segue sul set di Guernica e fotografa tutte le fasi di Guernica. Ecco, questo momento di tensione tra le due donne può essere anche visto e interpretato guardando questo quadro, dove una donna è addolorata e sconvolta e alza le braccia verso il cielo. Pablo Picasso, capolavori dal Museo Nazionale Picasso di Parigi, dal 20 settembre al Palazzo Reale di Milano. Info radio24.it.